dentro me nascosto, e lo so che non mi crederai, ma io lo cerco quanto te l'amore. Sono grani di un rosario le mie ore, ma serve urlando adesso. Yeah.